Nomads è un'esperienza nomade che attraversa i continenti e abbatte i confini dei saperi e delle culture. Nomads è quello che vogliamo essere, abitanti del mondo e viaggiatori perpetui. Nomads è il nome unitario che vogliamo dare ai numerosi progetti di cooperazione internazionale sviluppati nel corso di questi anni grazie al supporto dello spazio pubblico autogestito XM24. Gli obiettivi di Nomads sono legati alla condivisione dei saperi e alla diffusione delle informazioni, accompagnando il processo di emancipazione dei popoli in lotta. In questo senso sono stati organizzati corsi di comunicazione, festival di cinema indipendente e vari progetti di cooperazione internazionale in supporto alle lotte sociali dei paesi in cui siamo presenti. Inoltre, la diffusione della documentazione raccolta ci ha permesso di creare relazioni con i canali di informazione indipendenti internazionali, tra cui Radio Default.